Canto nono della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto nono. Quel color che viltà di fuor mi pinse, veggendo il duca mio tornare in volta, piuttosto dentro il suo nuovo ristrinse. Attento si fermò, com'uom c'ascolta, che l'occhio nol potea menare a lunga per l'aer nero e per la nebbia folta. Pure a noi converrà vincer la punga, cominciò ei, se non tal ne sofferse. Oh, quanto tarda me ch'altri qui giunga! Io vidi bensì com'eri coperse lo cominciar con altro che poi venne, che fur parole alle prime diverse. Ma non di men paura il suo dir dienne, perch'io traeva la parola tronca, forse a peggior sentenza che non tenne. In questo fondo della trista conca discende mai alcun del primo grado, che sol per pena alla speranza cionca? Questa question feci io, e quei di rado incontra mi rispose, che di noi faccia il cammino alcun per qual io vado. Verè ch'altra fiata quaggiù fui congiurato da quella riton cruda che richiamava l'ombre a corpi sui. Di poco era di me la carne nuda, ch'ella mi fece entrar dentro a quel muro per trarne un spirto del cerchio di Giuda. Quell'è il più basso luogo, il più oscuro, il più lontan dal ciel che tutto gira. Ben so il cammin, però ti fa sicuro. Questa palude, che il gran puzzo spira, cinge d'intorno la città dolente, u non potemo entrar ormai senz'ira. Ed altro disse, ma non l'ho a mente, perocché l'occhio m'avea tutto tratto ver l'alza torre alla cima rovente, ove in un punto vidi dritte, ratto, tre furie infernal di sangue tinte che membra femminili aveano ed atto e con idre verdissime eran cinte, serpentelli e ceraste avean per crine onde le fiere tempie eran avvinte. E quei che ben conobbe le meschine della regina dell'eterno pianto, guarda, mi disse, le feroci erine. Quest'è Megera, dal sinistro canto, quella che piange dal destro è a letto, Tesifone è nel mezzo, e tacque a tanto. Con l'unghie si fendea ciascuna al petto, batteansi a palme, e gridavansi alto, che mi strinsi al poeta per sospetto. Venga Medusa, s'il farem di smalto, gridavan tutte riguardando in giuso, mal no vengiammo in Teseo l'assalto. Volgiti indietro e tien lo viso chiuso, che se il Gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe del tornar mai suso. Così disse il maestro, ed egli stessi mi volse e non si tenne alle mie mani, che con le sue ancor non mi chiudessi. O voi ch'avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani. E già venia su per le torbide onde un fracasso d'un suon pien di spavento, per cui tremavano amendue le sponde, non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso per gli avversi ardori che fier la selva, e senza alcun rattento li rami schianta, abbatte e porta fuori. Dinanzi polveroso va superbo e fa fuggir le fiere di pastori. Gli occhi mi sciolse e disse, or drizza il nerbo del viso su per quella schiuma antica, per indi ove quel fummo è più acerbo. Come le rane innanzi la nemica biscia per l'acqua si dileguan tutte, finché la terra ciascuna s'abbica, vid'io più di mille anime distrutte fuggir così dinanzi ad un, ch'al passo passava stige con le piante asciutte. Dal volto rimovea quell'aere grasso, menando la sinistra innanzi spesso, e sol di quell'angoscia parea lasso. Ben m'accorsi che gli era del ciel messo, e volsimi al maestro, e quei fe segno ch'io stessi cheto ed inchinassi ad esso. Ahi, quanto mi parea pien di disdegno! Giunse alla porta e con una verghetta l'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno. «O cacciati del ciel, gente dispetta!» cominciò egli in sull'orribil soglia. «Ond'esta oltra cotanza in voi s'alletta? Perché ricalcitrate a quella voglia, a cui non puote il fin mai esser mozzo, e che più volte va cresciuta d'oglia? Che giova nelle fata dar di cozzo? Cerbero vostro, se ben vi ricorda, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo.» Poi si rivolse per la strada lorda e non fe motto a noi, ma fe sembiante d'uomo cui altra cura stringa e morda che quella di colui che gli è davante. E noi movemmo i piedi inver la terra, sicuri appresso le parole sante. Dentro v'entrammo senza alcuna guerra, ed io, ch'avea di riguardar disio la condizion che tal fortezza serra, come fui dentro l'occhio attorno invio, e veggio ad ogni man grande campagna piena di duolo e di tormento rio. Sì come ad Arli, ove il rodano stagna, sì come a Pola presso del Quarnaro, che Italia chiude i suoi termini bagna, fanno i sepolcri tutto il loco varo, così facean quivi d'ogni parte, salvo che il modo v'era più amaro, che tra gli avelli fiamme erano sparte, per le quali eran sì del tutto accesi, che ferro più non chiede ver un'arte. Tutti di lor coperchi eran sospesi, e fuor n'uscivan sì duri lamenti, che ben parean di miseri ed offesi. Ed io, «Maestro, quai son quelle genti che seppellite dentro da quell'arche si fan sentir coi sospiri dolenti?» Ed egli a me, «Qui son gli eresiarche, color seguaci d'ogni setta, e molto più che non credi son le tombe carche. Simile qui con simile è sepolto, e i monimenti son più e men caldi.» E poi, che la man destra si fu volto, passammo tra i martiri e gli alti spaldi. Fine del canto 9.